Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, io sono Franco D'Assisti, questo è il magazine di cinema di Radio 24 per raccontarvi le novità in sala, quelle in DVD, giocare insieme e ascoltare le voci dei grandi protagonisti del cinema. Una settimana molto densa con 5 nuovi film importanti che arrivano sui nostri schermi. Avremo i protagonisti praticamente della totalità di questi film, ospiti degli approfondimenti della Rosa Purpurea. Anzi, avremo qualcosa in più, un'intervista esclusiva a Brad Lewis, uno dei grandi guru della Pixar, produttore di Ratatouille e adesso anche regista del prossimo Cars 2. Quindi una puntata davvero speciale, piena di grandi voci dal cinema. E a proposito di voci, cominciamo a farci un po' il palato sui film della settimana nel nostro audio sommario. Regole del giorno. L'auto viene bloccata, si comincia a sparare. Niente scambi di prigionieri, tutti muoiono. Come al solito. Se a quelli non gli porti i soldi, ti buttano fuori dalla casa subito. Quale casa? Ed è mio figlio che manda avanti la baracca. Benvenuto all'inferno, Tamar. È come una grande famiglia. Meglio essere orfano che avere una famiglia così. Mio Dio! Oh mio Dio! Stai benissimo? Oh no, sono troppo grassa. Smettila. No, tu! Ero convinta che vomitassi di nuovo. Certo che la riabilitazione ha fatto miracoli per te, Kim. So che cosa sei. Sei incredibilmente veloce. E forte. Hai paura? Ho solo paura di perderti. In questo montaggio mancava un film, mancava perché è il primo film di cui vogliamo occuparci, un film italiano di un regista molto apprezzato come Edoardo Winsper, che ancora una volta ambienta un suo film sullo sfondo della splendida terra salentina, ma è un film che racconta una mafia diversa da quella che siamo abituati a vedere sul grande schermo, ovvero proprio la Sacra Corona Unita, e lo fa seguendo due personaggi che si ritrovano dopo essere stati amici e anche amanti durante la loro gioventù, si ritrovano, dicevo, su sponde opposte della barricata mafiosa. Il film si intitola Galantuomini, lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. La rabbia e l'odio, la sentirei entra, non la fare mai scoppiare. L'odio bisogna organizzarlo per qualche cosa di meglio della vita da merda che facevo. È la prima regola per chi vuole salire la scala gerarchica dell'organizzazione che sta nascendo, la Sacra Corona Unita. Siamo nel Salento, in Puglia, negli anni 90 e questi sono i consigli che il boss Carmine Zà dà al suo braccio destro, una donna, Lucia. Una cosa grande, un altro stato, adunca come andiamo noi, come i siciliani, i napoletani, i calabresi. Te le immagini, Lucia mia? Come copertura, lei fa la rappresentante di profumi. In realtà i suoi affari sono nel traffico della droga e delle armi fra il Sud Italia e il Montenegro. La morte per overdose di Fabio, un amico d'infanzia, la porta a rincontrare un altro compagno di gioventù, Ignazio, giudice che è da poco rientrato a Lecce dopo aver lavorato per molti anni al nord. Dietro la morte di Fabio c'è una dose tagliata male. Gliel'ha venduta l'ex di Lucia, Infantino, da cui lei ha anche avuto un figlio. Il caso viene affidato proprio a Ignazio. Ma tutta sta droga al paese nostro, da dove esce? Ma prima non era così. Ce ne sa, Ciglia. Ormai c'è l'invasione di sta roba di merda. Io se vedo qualche faccia losca nel locale, zicco, lo sbatto fuori. Un'inchiesta che si allarga sempre di più, con una guerra fra i gruppi malavitosi che porta a decine di morti e che soprattutto conduce Ignazio alla scoperta della verità. Lucia, la donna che segretamente ha sempre amato, non è soltanto coinvolta in questi traffici, ecco lei che li comanda. Il magistrato lascia l'inchiesta, ma sarà lei, Lucia, a tornare un'ultima volta a bussare alla sua porta. Perché lo vuole proteggere? Ve l'ho già detto, ve lo ripeto. Non ci frequentavamo più con Luigi, ormai da parecchio tempo. Va bene, per me la signora mi sembra che abbia detto tutto quello che doveva dirci. Può bastare. Una storia d'amore insieme a un film sulla criminalità, con protagonista assoluta Donatella Finocchiaro, premiata al Festival di Roma per la sua interpretazione di una donna del sud potente e affascinante. Debole invece Ignazio, Fabrizio Gifuni, uomo di legge vinto dalla passione, come Beppe Fiorello, Infantino, bullo senza coraggio. E grande spazio nel film di Winsper è lasciato al Salento, con i suoi ulivi e la sua lingua, padrone della pellicola, in larga parte sottotitolata. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Galantuomini di Edoardo Winsper. Ascoltiamo adesso le voci dei protagonisti, Fabrizio Gifuni e Donatella Finocchiaro, al microfono di Boris Sollazzo. Fabrizio, qui hai una cifra stilistica più ambigua. È quello che ti ha tratto di questo ruolo? Sì, è un personaggio che si rompe, detto in due parole. C'ha una un'apparente solida impalcatura razionale che ha dato anche dei buoni frutti, è uno stimato magistrato, apprezzato da tutti, non ne sbaglia uno, eccetera. Poi fortunatamente, dico io, si rompe e inizia a sbagliare tutto. E nel momento in cui inizia a sbagliare tutto vuol dire che la parte forse migliore di lui si è affacciata. Una donna forte e fragile allo stesso tempo, quanto hai pescato da te e quanto hai pescato dalla tua esperienza da attrice? Edoardo è stato veramente bravo a tirare fuori l'anima nera che è in me, tanto nera che io stentavo a riconoscermi in certi momenti. C'era sempre il giusto equilibrio tra questa durezza e poi la femminilità che doveva uscire fuori nel momento in cui questo personaggio pian piano si sgretola, perde questa sua durezza e comincia veramente una disperazione assoluta sulla ricerca veramente di chi è lei. I galantuomini è la prima proposta di questo fine settimana per quanto riguarda La Rosa Purpurea. Fra poco parleremo invece di Rachel Getting Married di Jonathan Demme con Anne Hathaway. Apriamo una piccola parentesi ricordando che in questo fine settimana comincia il Torino Film Festival diretto da Nanni Moretti, con la presenza a Torino di Oliver Stone e di Roman Polanski, oltre a tantissimi altri registi in competizione e in concorso. Avremo ovviamente ampi resoconti sul Torino Film Festival nella prossima puntata della Rosa Purpurea, perché in questo weekend davvero non ce n'erano i tempi. Fine della parentesi, noi andiamo a dare un'occhiata a quello che è successo la scorsa settimana al botteghino, sul quale minacciava di abbattersi la fidanzata di papà con Massimo Boldi. Sentiamo com'è andata da Daniela Faggion. Odor di cine panettone al botteghino a più di un mese dal botto natalizio. Entra intanto al quinto posto l'ottimo horror spagnolo The Orphanage con 585.000 euro. Un, due, tre. Scende dalla seconda alla quarta piazza il saltellante High School Musical, nel weekend scorso poco sotto il milione di euro, per un complessivo di 8.440.000. Tutt'altro tono al terzo posto, dove debutta Changeling con Angelina Jolie diretta da Clint Eastwood, 1.280.000 euro. Questo dipartimento di polizia non tollera le critiche e lei è in condizione di metterle in imbarazzo, e allora non piace. Solo una settimana in vetta ed è già al secondo posto Quantum of Solace, che con un altro 1.500.000 supera i 5.500.000 totali. L'agente segreto di Sua Maestà è stato battuto dalla fidanzata di papà. Massimo Boldi e Simona Ventura aprono la saga dei cinepanettoni con oltre 2.500.000 e un sacco di risate. Me l'hai pollinata! Siamo qui riuniti per celebrare l'amore puro e semplice. Rachel è pura, Sidney è semplice. C'è tanta gente nella bella casa in stile coloniale del Connecticut. Rachel Getting Married. Rachel sta per sposarsi, e questo è il titolo del film di Jonathan Demme con il quale apriamo questa seconda parte della Rosa Purpurea. Rachel, dicevamo, si sposa, e a renderle onore sono arrivati gli amici d'infanzia e quelli di oggi, parenti vicini e lontani. Per 3 giorni a casa di Rachel si festeggerà fino al fatidico sì. Alla festa è arrivata anche la sorella di Rachel, la bella e turbolenta Kim, che sta per abbattersi come un ciclone sulla famiglia e sugli ospiti. Tanto è precisa e per bene, infatti, Rachel, quanto Kim, che ha il volto di Anne Hathaway, è dissennata e difficile. È in cura disintossicante in una comunità, ma da 9 mesi è pulita. Questo però sembra non bastare ai suoi cari, che la scrutano movimento per movimento con un'ipocrita condiscendenza. Dietro i loro sorrisi in realtà si cela l'ansia, la preoccupazione e anche la disapprovazione per quel che Kim è e per ciò che potrebbe fare. Kim è volenterosa, ama sua sorella e non vuole guastarle la festa, ma l'atmosfera attorno a lei è irrespirabile e pian piano lo spettatore viene portato a conoscenza dei terribili fantasmi, dei segreti che si celano dietro i suoi passati di alcol e droga. Tutti quanti a casa mi guardano come se fossi una sociopatica. Insomma, cosa avete paura che faccia? Che gli affuoca la casa? Rachel Getting Married, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e da questo fine settimana nei cinema italiani, è un ritratto a tinte melò di una famiglia borghese americana alle prese con un pesante fardello di ricordi e di rimorsi mai del tutto superati. Kim è la febbre che agita gli anticorpi di gruppo. La famiglia ne uscirà più forte, più sincera, con legami finalmente chiariti. Pur in un film apertamente narrativo, Jonathan Demme dirige camera a spalla con un taglio quasi documentaristico, scrutando passo passo le reazioni della sua protagonista. Uno stile al quale ha certo giovato il recente passato documentaristico del regista del Silenzio degli Innocenti, che ha avuto in The Agronomist l'episodio di punta. Sentiamo a questo proposito proprio Jonathan Demme. I was very, very, very influenced by my experience making documentary. Con Rachel Getting Married sono stato influenzato moltissimo dalla mia esperienza col documentario. Quando faccio un documentario provo a drammatizzarlo e quando invece giro un film tento di farlo sembrare il più reale possibile. Quello che abbiamo fatto questa volta è stato fingere che stessimo girando un documentario e abolire del tutto le prove. Gli stessi attori al momento delle riprese non sapevano che cosa avremmo girato. Ricreavano una situazione, iniziavano a recitare e poi il direttore della fotografia decideva sul momento come riprenderli. È stato un tentativo di ridurre la manipolazione degli spettatori e lasciare che siano loro stessi a decidere come sentirsi. Quanto a Anne Hathaway alle prese con il suo primo ruolo dark, si dimostra a suo agio, come lo era stata nei panni della ragazza per bene del Diavolo Veste Prada e nel tailleur executive dell'agente speciale di Get Smart. Quindi un'altra sfaccettatura in un prisma di una carriera sempre più convincente. Ai nostri microfoni la Hathaway ha descritto così il suo personaggio. I've been asked a lot about Kim, what it was like to play a troubled character. Non ho mai considerato Kim un personaggio tormentato e torturato. Tecnicamente so che lo è, ma l'ho sempre vista solo come una ragazza che combatte per condurre una vita onesta. E lei è profondamente onesta, selvaggiamente onesta. E questo è stato divertentissimo da interpretare. La cosa che mi è piaciuta di più è stata proprio quella di essere il combustibile, l'elemento scatenante di tanti litigi. I really do mean it this time. Abbiamo parlato di Rachel Getting Married di Jonathan Demme con Anne Hathaway nei cinema italiani da questo weekend. È arrivato il momento di giocare qui alla Rosa Purpurea, come sempre, e cominciamo con l'ascoltare la prima traccia di un film misterioso e fra poco vi racconteremo un po' come partecipare a questo DVD game. Ciao! Ciao! Come stai, micina? Benone! Che stavi facendo? Giocavo. Ci vieni alla mia festa domani? Mi dispiace, tesoro, ma non posso. Perché no? Beh, lo sai, papà è in viaggio. Però ti manderò un bellissimo regalo. Grazie. Buon compleanno per domani e divertiti tanto con i tuoi amichetti, Va bene. Come la scorsa settimana si gioca con altri tre capolavori immortali fra gli 85 che la Warner Bros. Ha scelto, ha rieditato in DVD per festeggiare proprio i suoi 85 anni. Un film all'anno, potremmo dire. La settimana scorsa un successo clamoroso, una partecipazione clamorosa da parte di tutti voi, quindi ancora grazie. Vi ricordo che per giocare, se avete indovinato di che film si tratta, dovete scrivere all'indirizzo di posta elettronica larosapurpurea@radio24.it e dire il titolo del film, ovviamente l'ascoltatore più veloce, chiaramente fra quelli che avranno indovinato, riceverà a casa il film in questione. Più tardi però giocheremo con altri due film diversi, con altri due capolavori degli 85 anni della Warner Bros. Ed ecco, c'è una proposta cinematografica sicuramente più piccola nella produzione, ma che lavora su una tematica molto importante, che è quella delle relazioni in Medio Oriente, soprattutto a Gerusalemme, in Palestina. È la storia di un ragazzo a cui viene affidato un compito singolare, quello di mettersi alla ricerca della padrona di un Labrador, ma questo inseguimento sarà il pretesto per una sorta di road movie attraverso Gerusalemme. Un film che era pronto già nel 2006, ci ha messo un po' di tempo ad arrivare sui grandi schermi d'Italia, lo ha visto per noi Barbara Righini. Una Gerusalemme vista da una prospettiva nuova. Odette Davidoff, regista israeliano, ha preso il romanzo di David Grossman, Qualcuno con cui correre, e l'ha portato sul grande schermo, scegliendo i suoi protagonisti fra i ragazzi veri che abitano la città. Nessun attore professionista, quindi. Tutto inizia con un cane smarrito, Dinka. Asaf è un adolescente volenteroso che aiuta al canile della città e ha un nuovo compito. Allora, Asaf, ecco cosa devi fare. Gli metti il guinzaglio e lo segui dovunque va. Vedrai che ti porta dal suo padrone. Non è facile seguire Dinka, ma è vero che il cane sa dove andare e saprà ritrovare la sua padrona. Intanto Asaf, ad ogni nuovo indizio, inizia ad appassionarsi alla ricerca. La padrona si chiama Tamar ed è anch'ella una ragazza giovanissima. Asaf ne è già un po' innamorato, ma Tamar si sta cacciando in un brutto guaio. Anche lei sta cercando qualcuno. Conosci un ragazzo che suona nelle piazze? Molto carino, magro, occhi grandi. Suona una chitarra elettrica nera. Cos'è per te? Niente. Meglio così. Non se la passa molto bene. È un'artista, Tamara, ama la libertà ed è molto brava, suona la chitarra e canta, ma la sua ricerca di questo ragazzo misterioso la porterà ad incontrare persone cattive. Una storia delicata, quella raccontata da Odette Davidoff, condensate in due ore il mondo di una certa gioventù israeliana, la ricerca d'amore che sia fraterno o d'altro tipo e la speranza di un qualche cosa di migliore nel futuro. Il regista mostra allo spettatore che non c'è solo la Gerusalemme delle bombe e degli attentati, mentre la scelta di attori non protagonisti e della camera spesso a spalla dona spontaneità e immediatezza al film. Peccato per il doppiaggio che a tratti rovina quello che sarebbe stato un buon film. E la nostra Barbara Righini ha intervistato il regista di questo film, qualcuno con cui correre. Oded Davidoff è passato da Milano per incontrare la stampa. Sentiamo l'intervista di Barbara Righini. Ci mostri una Gerusalemme sconosciuta. Yeah, one of the reason I choose the film, the first reason is I like the book. Concerned young people. Una delle ragioni per le quali ho scelto di fare questo film è il grande amore per il libro. La seconda ragione invece è stata Gerusalemme. In questo film si parla di giovani a Gerusalemme, persone vere. Io sono nato e cresciuto lì e vi assicuro che i giovani non si preoccupano della politica e della guerra. Questa è la storia di una donna coraggiosa che corre rischi per salvare una persona, è la storia di una ricerca, è una storia d'amore. Ecco come vivono i giovani a Gerusalemme. Come in ogni altra parte del mondo, è un paese moderno, ma la tensione comunque l'avverti. Il conflitto l'odori nell'aria. Ho sempre voluto girare un film lì. Questa storia era perfetta perché il cane corre ovunque e tu puoi mostrarla. È un po' un thriller, è una love story. Mi ha commosso quando lessi il libro. In questo film ci parli anche di, oltre che d'amore, anche di arte e di dipendenza. L'arte può essere vista come una forma di dipendenza? Let's say every project I do, the minute when I'm doing it, I'm suffering. Diciamo che ogni progetto nel quale mi impegno, mentre lo faccio, mi fa soffrire. È dura girare, è tutto così difficile, ma appena finisco non vedo l'ora di iniziarne un altro. Quindi penso di sì, se sei regista o attore, vuoi fare il tuo lavoro come se fosse una droga, sì. Se diversamente non puoi fare questo lavoro. Linea ora alla regia, fra poco torniamo insieme qui alla Rosa Purpurea, ci sono ancora un paio di proposte cinematografiche, una davvero molto importante, è il film della settimana per noi, lo abbiamo tenuto lì all'inizio della terza parte, come si suol dire, dulcis in fundo. Il film si intitola Nessuna Verità, lo dirige un grande come Ridley Scott, lo interpretano due star assolute di Hollywood come Leonardo DiCaprio e Russell Crowe qui alla Rosa Purpurea. Mi senti Ed? Noi adesso andiamo a nord, mi senti? Andiamo alla base segreta di Balad. No, amico, te lo scordi. Sei bruciato, girano delle voci. Se fossi bruciato, allora avresti dovuto mandare una squadra appena Nisar è stato ucciso. Ma non l'hai mandata una squadra, vero? Vero? Beh, ero al telefono con te, Ferris. Leonardo DiCaprio e Russell Crowe, colleghi contro in Nessuna Verità, il nuovo film di Ridley Scott, dal quale riprende il viaggio nelle novità al cinema in Italia, qui alla Rosa Purpurea. È un film incentrato sul ruolo dei servizi segreti nella guerra dell'Iraq. Una spy story in piena regola che racconta il rapporto tormentato fra il veterano della CIA Ed Hoffman, Russell Crowe, e il miglior agente dell'intelligence sul campo in Medio Oriente, Roger Ferris, Leonardo DiCaprio. Una pericolosa organizzazione terroristica sta progettando una serie di sanguinosi attentati nelle città europee. Roger Ferris viene inviato a cercare di stanare il capo di quel gruppo, Al-Salem, e per aumentare la probabilità di successo dell'operazione viene costretto a collaborare con il capo dei servizi giordani. Tuttavia, man mano che si avvicina all'obiettivo, rischiando la vita, infiltrandosi, uccidendo, innamorandosi, Ferris si rende conto che la sua vita è in mano a un uomo dagli scrupoli molto limitati, che lo guida da migliaia di chilometri di distanza costantemente al telefono oppure da un satellite. Ferris, insomma, è una pedina nelle mani di un apparato. C'è gente che viene su dalla collina! Due macchine sulla destra! Ci passo io! Tu guida! Ridley Scott riprende in mano il discorso iniziato 7 anni fa con Black Hawk Down, che era un film rivelatore in anticipo di una modalità cinematografica che racconta la guerra attraverso il mezzo mediatico. Allora erano i video, ora i satelliti. Ma sempre un punto di vista altro rispetto al campo di battaglia. E proprio la questione dei punti di vista è il cuore di Nessuna Verità, in originale Body of Lies. Quello di Ed Hoffman, che guida operazioni sanguinose dall'auricolare mentre con le mani fa fare la pipì al bambino o pesca nel lago. E poi c'è invece il punto di vista di Roger Ferris, che si mischia agli amici e ai nemici sul campo, in mezzo alla polvere e all'odore della guerra. Tratto dal libro del giornalista del Washington Post David Ignatius, Nessuna Verità parte forte, sostenuto dal montaggio adrenalinico di Pietro Scalia, al quale dobbiamo l'ipercinetico JFK di Stone, ma si incarta nella seconda metà, nel quale affiora qualcuno degli errori che affossarono già Black Hawk Down, un troppismo, lì dei personaggi, qui di situazioni ridondanti, che nuoce alla scioltezza, all'aerodinamica del film. Ridley Scott però dirige e riprende come sempre in maniera impeccabile, regalando spesso inquadrature, ancora una volta punti di vista, che sono davvero un marchio di fabbrica. E andiamo ad ascoltare le parole di Leonardo DiCaprio, qui con un ruolo importante, chissà che non sia la volta buona per l'Oscar, per questo attore 3 volte nominato ma mai premiato con la statuetta. E Leonardo DiCaprio ci racconta un po' quello che ha provato nel vestire i panni di questo personaggio, di questo agente segreto, per una volta dal volto abbastanza umano. Sentiamo. I really loved playing a character who had, mi è piaciuto molto vestire i panni di questo personaggio così patriottico, una persona che amava il proprio paese e voleva porre fine alla guerra in Medio Oriente. Era un operativo sul posto, ma allo stesso tempo moralmente voleva stabilire rapporti duraturi in Medio Oriente e offrire una promessa di libertà e pace. Questo suo sforzo però veniva minato costantemente dal suo paese. E sulla verità, alla Rosa Purpurea, il film della settimana per quanto concerne almeno l'importanza del regista e dei protagonisti di questo film. Noi siamo arrivati alla seconda traccia del DVD Game, ancora una volta straordinario, speciale di questa settimana, dedicato agli 85 anni della Warner Bros. Ascoltiamo un passaggio del secondo film misterioso di oggi. Come sette sane di violetto, tutto sciupato. Per piacere, commendato, compri 2 fiori da povere ragazze. Mi dispiace, non ho spiccioli. Ma io me posso cagnare se volete, io la tengo le monete. Ho già detto che non ho spiccioli, figlia mia. Se avete indovinato di che film si tratta, volete provare a vincere il DVD, l'indirizzo di posta elettronica è larosapurpurea@radio24.it. Andiamo ora a un fenomeno generazionale che si sta per abbattere sui nostri adolescenti, così come è accaduto per gli adolescenti di mezzo mondo. Si intitola Twilight, è un film che prende le mosse da una serie di libri e ha per protagonista un giovane e affascinante vampiro. Chissà se sostituirà nei cuori delle teenager di tutto il mondo Zac Efron o i personaggi di questa generazione. Ce ne parla Annalisa Misceo. Lui è Edward Cullen. È uno schianto assoluto, ovviamente. Ma a quanto pare nessuna di noi gli sta bene. Edward è bellissimo. Ha in sé qualcosa di strano, ma terribilmente attraente. Bella non sa spiegarsi cosa sia, ma quel compagno di scuola così silenzioso e apparentemente distante è quello che sente più vicino a lei. Bella si è appena trasferita dalla solata Phoenix a casa di suo padre a Forks, la città più umida e piovosa degli Stati Uniti, e non sa ancora che la sua scelta sarà decisiva per il corso della sua vita. Allora, ti piace la pioggia? La pioggia non mi piace per niente. Ogni cosa fredda e bagnata proprio. Se detesti tanto il freddo e la pioggia, perché ti sei trasferita nel posto più umido degli Stati Uniti? Proprio l'umidità e la pioggia sono i motivi che hanno portato Edward a Forks. Lui e la sua famiglia non amano il sole ed escono solo quando è molto nuvoloso o piove. Edward e la sua famiglia sono vampiri. E poco a poco, Bella, incuriosita e attratta irrimediabilmente da quello strano ragazzo, lo capirà. Io so cosa sei. Dillo. Un vampiro. Hai paura? No. Edward, come gli altri membri della sua famiglia, però, è un vampiro vegetariano. Non beve sangue umano, solo animale. Eppure non tutti sono come lui. Nella zona di Forks girano altri della sua specie, pronti a uccidere per nutrirsi, e dai quali Edward deve proteggere Bella. Noi siamo diversi dagli altri della nostra specie. Il vampiro, che nella storia della letteratura trascinava verso le tenebre in Twilight, fiaba moderna tratta dal primo bestseller della saga scritta da Stephanie Meyer, diventa il principe azzurro, che protegge, difende e vive, qui non è solo una metafora, per la sua amata. Perché è grazie a Bella, una ragazza come tante che ha incontrato nei suoi eterni 17 anni, che il non morto Edward riesce a rientrare in contatto con il mondo dei vivi. Eppure quello stesso amore che fa vivere lui può uccidere lei. Per questo Edward non può avvicinarsi troppo a Bella. Ed è proprio la continua tensione tra desiderio e rischio, chiave moderna dell'eterno binomio Eros e Thanatos, che ha affascinato già i lettori e promette di incollare le giovani spettatrici allo schermo, pubblico cui è diretto il film e che già prima dell'uscita ha eletto la pellicola a nuovo cult. E anche i vampiri di Twilight hanno avuto bisogno dell'aiuto della computer grafica, che è stata la grande protagonista di un evento che si è concluso la scorsa settimana a Torino. Ne avevamo parlato in fase di presentazione, il View Conference, una delle più grandi kermesse a livello italiano ed europeo sicuramente, ma anche a livello internazionale, per fare il punto della situazione sulle applicazioni della computer grafica in tutti i vari settori dell'entertainment, compresa l'animazione digitale. Un momento importante perché arrivano dall'America i più grandi guru di questo settore ed è stata l'occasione per avvicinare ed intervistare Brad Lewis, un nome che forse per le masse in Italia rimane un po' dietro le quinte, ma vi do qualche dato. È stato il produttore di uno dei primi film in animazione tridimensionale di tutti i tempi, ovvero Zeta la formica. È stato il produttore di Ratatouille, vincitore del premio Oscar, ed è il regista designato che sta lavorando su Cars 2, il sequel del grande film automobilistico digitale della Pixar Disney. Brad Lewis ai microfoni della Rosa Purpurea, cominciando proprio da Cars 2, sul quale però Brad Lewis non ha potuto sbilanciarsi molto, proprio perché siamo in una fase assolutamente precoce di lavorazione sul film che è programmato nelle sale per il 2011. Sentiamo ai nostri microfoni Brad Lewis. So, unfortunately, you start off with one question that I really can't answer. So, temo che tu mi abbia fatto l'unica domanda alla quale non posso rispondere. Posso solo confermare che nel nuovo Cars 2 Saetta McQueen e Cricchetto diventeranno internazionali. Sarà divertente. Abbiamo anche un deciso cambio di genere rispetto al primo Cars. Io ho trovato il film Cars, il primo Cars, uno dei film più esemplificativi, più importanti degli anni recenti americani sullo scontro fra due idee dell'America. In questo senso mi viene da fare un paragone con il film dei fratelli Coen, No Country for Old Men. Anche lì ci sono due visioni di un'America nuova e vecchia. Diciamo che qui in Cars non ci sono le pistole, ecco, questo aiuta. Cars wasn't my story. Beh, sai, il primo Cars non era una mia storia. Comunque hai ragione quando parli di dualismo. Si vede nella contrapposizione tra una piccola città di provincia e la velocità dei nostri tempi, tra l'esplosione di tecnologia e i solidi valori di una volta, come l'amicizia, il senso di comunità. Non sono certo che ci sia anche nel nuovo film. In tutti i nostri film cerchiamo di creare personaggi guida, come Saetta McQueen, in grado di trovare legami con il mondo esterno. Torniamo un attimo indietro a quella notte degli Oscar, al di là del ricordo, insomma, di questo momento clamoroso di Ratatouille. È vero che lui ha detto, noi lavoriamo sempre in squadra, però un Oscar di un film di animazione, di chi è? Del regista o del produttore? You know, right now the Academy rules are as it goes to the director and the director only. Beh, gli Oscar vanno solo e solamente ai registi. Non c'è nessuna persona che può avere un merito paragonabile. Non c'è stato dubbio quindi che per Ratatouille Brad Bird fosse l'uomo giusto per ricevere l'Oscar. E questa è la spiegazione tecnica, ma sono convinto che lo stesso Brad ti direbbe che tutti i nostri film sono la somma di tanti talenti e il regista si alimenta e si ispira con i feedback che gli arrivano dai suoi collaboratori. È affascinato dallo sviluppo del 3D, cioè della possibilità di vedere i film proprio con gli occhialini. Dobbiamo abituarci all'idea che fra 10 anni i film che vedremo d'animazione saranno sempre con gli occhialini addosso? You know, this will sound rude, but I find it the most Ti dirò che la cosa non mi appassiona così tanto, anche se è interessante immaginare come vivremo il cinema nel futuro. A volte ne parliamo con Brad Bird. La storia del cinema è costellata di innovazioni tecniche, come quando uscirono le telecamere Panavision. Ma personalmente penso che quel che è importante in un film è l'identificazione, se ti fa ridere, ti fa piangere, ti fa provare emozioni. Al di là del fatto che siano in 2D o in 3D o solo una grande storia raccontata a tavola, questo mi interessa, se mi fa ridere o mi fa piangere. Non mi importa come. It's just make me laugh, make me cry. I don't care how you do it. Era Brad Lewis, uno dei più grandi guru mondiali dell'animazione digitale, qui in esclusiva alla Rosa Purpurea. Ultima parte della Rosa Purpurea, abbiamo spostato un po' in avanti l'appuntamento con Trailer USA, la nostra rubrica che vi fa ascoltare in anteprima i suoni dei nuovi film americani. Siamo insieme alla nostra Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora Micaela, abbiamo scelto un film questa settimana che è già nelle sale americane, arriverà fra qualche mese anche in Italia e che, a dispetto del suo titolo, Role Models, non parla di moda né di modelle, ma è una commedia con Elizabeth Banks, Paul Rudd, Sean William Scott, che ha subito fatto breccia nel cuore e al botteghino del pubblico americano perché si è piazzata immediatamente al terzo posto del box office. Secondo te perché, Micaela? Ma Franco, forse per via del nome. Role Model significa infatti esempio di virtù, quindi un titolo, un programma, possiamo dire così. Comunque è la storia di due venditori di energy drink, Danny e Weller, che girano Los Angeles con il loro SUV super sponsorizzato. Ovviamente i due sono anche sregolatissimi, bevono, fumano, si divertono e alla fine provocano un incidente che li porta dritti all'arresto. Per punizione il giudice li obbliga a spendere 150 ore di servizio con un programma di tutorial in una scuola per bambini difficili. Ora vi facciamo ascoltare un pezzo del trailer in cui i protagonisti accettano di diventare rappresentanti di questa bibita perché pare loro un lavoro divertente. Why do we still do this job? This is the best job in the world, man. We get to wear awesome outfits and it's totally easy to do hungover. Let's rock West Academy. The energy drink Minotaur is good. Woo! Taste the beast. Minotaur! In effetti, Micaela, ascoltando la trama vengono un po' in mente le atmosfere di School of Rock, nel quale era un Jack Black scatenatissimo a trasformarsi in un insegnante modello per i suoi bambini, che però metteva tutto in chiave rock and roll. Sì, il genere è un po' quello. Qua non c'è la musica, ma il rapporto fra i bambini e i loro improvvisati tutor, che all'inizio è un po' difficile, poi diventa molto, molto simpatico perché saranno gli adulti ad imparare dai piccoli. Ma sentiamo adesso, Franco, un altro passaggio dal trailer in cui un bimbetto insiste nell'ordinare a uno dei due nuovi tutori di far finta di essere Ben Affleck, l'attore. What's up, reindeer games? I'm not Ben Affleck. You're white, then you Ben Affleck. You are white. It's true, I am white. Let's go. See you tomorrow, Ronnie. Oh! Niente meno di Ben Affleck, quindi chissà perché. Alla prossima, Micaela. Ciao, Franco. Ciao agli ascoltatori. Appuntamento la prossima settimana con le novità cinematografiche americane a Trailer USA. A questo punto noi andiamo ad ascoltare l'ultima traccia misteriosa dell'ultimo film misterioso di questa settimana. Oggi, come forse lei sa o forse no, non importa, è la prima giornata delle finali di baseball. Beh, io vorrei suggerire di spostare l'orario di lavoro di questa sera, così ci vediamo la partita in TV. Beh, signor McMurphy, con la sua proposta lei chiede di cambiare stasera un orario di lavoro minuziosamente studiato. Una cambiatina non guasta mica, no? Per non annoiarsi. La Rosa Purpurea, @radio24.it, è l'indirizzo di posta elettronica. Se avete capito di che film si tratta, come sempre vi chiedo di inserire anche già sin d'ora il vostro indirizzo di posta privata per ricevere eventualmente a casa il DVD, se sarete fra i bravi e i fortunati che lo avranno vinto. E a proposito di DVD, è arrivato il momento di chiamare in causa qui alla Rosa Purpurea il nostro super esperto di un video, Claudio Pofi, che saluto. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora andiamo a dare un'occhiata a quello che c'è da presentare in questa settimana in videoteca, cominciando come sempre dal DVD game della scorsa settimana, che era stato un po' particolare come quello di questa settimana, peraltro dedicato ai grandi capolavori degli 85 anni della Warner. Avevamo tre film che vi avevamo fatto scoprire, assaggiare. Siete stati molto bravi, anche molto numerosi. Scopriremo fra poco chi vincerà questi tre titoli. Andiamo però a riascoltarli in una sorta di piccolo pulpuri audio. Ascoltiamo. Voglio sposare la tua Nettie. Non ti posso dare, Nettie. Troppo giovane. Ma sai che faccio? Ti do l'altra, Silly. Silly è brutta, ma è abituata a lavorare e impara alla svelta. Vorremmo un tavolo vicino a lui. E lontano dal maggiore Strasser il più possibile. Se lo sapesse che preferite un negro a un ariano. Ah, deve vedere il giardino prima di andarsene. Deve proprio. I miei fiori vincono sempre dei premi. Si trattava del Colore Viola di Casablanca e di Lolita. Hanno vinto Ennio Passalia di Firenze, il Colore Viola, Ugo Jezzi di Chieti, Casablanca, e Marina Zanella di Brescia, Lolita. Bravi, riceverete a casa i DVD di questo film. Claudio, una parola per ognuno di questi tre titoli nell'ambito di questa collana degli 85 anni Warner. Sì, Warner naturalmente cura in maniera incredibile questi titoli, sono titoli d'autore straordinari, sono editi sia in versione singola che doppio disco. Segnalo tra l'altro che per Casablanca è appena stata pubblicata anche la versione in alta definizione Blu-ray. E passiamo ora a un titolo invece del tutto nuovo, uno spin-off come viene chiamato in gergo, ovvero il film dedicato a un personaggio apparentemente minore di un altro film, di un'altra storia, in questo caso Trilli, Campanellino, la fatina forse più amata, tanto che recentemente a Londra nel Museo delle Cere di Madame Tussauds è stata dedicata una statuina di cera, la più piccola del mondo. Disney esce appunto con questo simpatico DVD, ascoltiamo una clip. Boschi innevati, fa sempre così freddo qui. Guardala! Le fate dei fiocchi di neve e quelle del gelo tornano a casa per il loro meritato riposo. Infatti hanno appena finito di portare l'inverno nel mondo. Distribuisce Disney questa bellissima storia, questa fiaba splendida che ci cala nel mondo della dura incantata, questo mondo fantastico abitato appunto da delle bellissime luminose fatine, tra cui c'è anche la simpatica e tenera Trilli. Naturalmente siamo in zona perfezione pressoché assoluta, perché insomma l'opera è in computer grafica, quindi non si riscontra alcun tipo di difetto dal punto di vista dell'immagine. Grande cura anche per l'audio multicanale in Dolby Digital. Sono veramente numerosi gli extra che permettono di approfondire la lavorazione complessa di quest'altra opera, tra l'altro è disponibile anche in alta definizione Blu-ray. Claudio, abbiamo parlato molto in questa puntata di animazione, ma c'è anche l'animazione italiana, e qui voglio veramente spendere una parola al di là della presentazione del prodotto del DVD che tu stai per fare, perché abbracciamo un personaggio che è stato un personaggio mitico soprattutto della nostra infanzia, di noi che oggi non siamo più proprio giovanissimi, ovvero il signor Rossi. Era un omino, forse i più giovani non se lo ricorderanno, non l'avranno neanche mai visto, un omino per bene, vestito per bene con la sua giacca rossa. Era il signor Rossi, era l'uomo medio italiano, ed era una striscia davvero straordinaria nella sua semplicità ma anche nella sua intelligenza. E ora arriva una bella edizione in DVD per raccontare e riproporre questo personaggio. Ascoltiamo una clip. Non voglio passare l'estate alla destra del ventilatore. Appena rientra Rossi me lo faccio spostare a sinistra. Sorpresa! Hai comprato un ventilatore più grande. Fuochino, ho preso una roulotte. E dov'è? Presto, i bagagli sono pronti, dobbiamo partire. L'opera di San Paolo Audiovisivi, parliamo di un box che contiene 4 DVD con i 3 lungometraggi realizzati da Bruno Bozzetto, Guido Manuli, Maurizio Nichetti, giusto per citare 3 dei più importanti autori che hanno realizzato queste opere, che sono appunto Il signor Rossi cerca la felicità, I sogni del signor Rossi e Le vacanze del signor Rossi. Il 4° DVD offre 7 cortometraggi, interviste all'autore e ai collaboratori, disegni, schizzi, rodovetri, storyboard, insomma tutto il mondo all'interno del signor Rossi. Stiamo parlando di animazione a cavallo tra 1960 e 1970, la qualità video è eccellente perché c'è stato un restauro completo da parte di Sound & Vision Milano, e tra l'altro oltre alla classica traccia Dolby Digital 2 canale abbiamo addirittura un remissaggio in multicanale. La qualità è assolutamente eccelsa, che cosa dire, insomma auguri a Bruno Bozzetto e a San Paolo, perché questo è veramente un box da collezione. Ritroviamo quindi anche il signor Rossi e con lui chiudiamo il nostro spazio dedicato ai DVD. Ciao Claudio, appuntamento alla prossima settimana. A presto, un saluto. E con Claudio Pofi e con i DVD noi abbiamo chiuso anche quest'altra puntata della Rosa Purpurea, davvero molto molto ricca e piena soprattutto di grandi ospiti. Speriamo di avervi aiutato a scegliere un buon film per il weekend. Per noi sarebbe già una grossa soddisfazione. Appuntamento la prossima settimana, sabato e domenica, qui su Radio 24, alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.